Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Questa mattina parliamo ancora una volta di crisi e di debito, ma non si tratta di una delle nostre consuete puntate sui mercati europei e sugli spread dei titoli di Stato. La situazione di tante famiglie, infatti, purtroppo in scala ridotta, molte preoccupanti analogie con quella dei paesi a rischio di solvibilità. Perché? Perché basti leggere i giornali degli ultimi giorni, abbiamo avuto il via libera da parte del governo al provvedimento sulle situazioni di bancarotta individuale, cioè il disegno di legge che regola per la prima volta nella storia del paese il caso appunto di bancarotta individuale, di fallimento della famiglia dal punto di vista chiaramente finanziario ed economico. Noi appena possibile dedicheremo a questo delicato argomento, quando saranno definiti i contenuti dettagliati della misura, una puntata della nostra trasmissione. Nel frattempo però possiamo dedicarci ai presupposti di questo intervento legislativo, cioè all'indebitamento delle famiglie e dei consumatori. In molte delle nostre case, alla fine del mese, sono tante le rate da pagare che pesano sul bilancio. Si va dal mutuo alla rata per l'automobile, ma anche a quella per aver acquistato il televisore, più banalmente per esserci regalati magari l'ultima settimana di vacanza in montagna. Piccoli e grandi prestiti che si sommano e stanno diventando pesanti, soprattutto di fronte alla crisi, o diventano particolarmente pesanti quando ci troviamo ad affrontare un imprevisto come una grossa spesa non preventivata o peggio ancora la perdita del lavoro, e queste situazioni appunto possono diventare molto complicate e le rate impossibili da pagare per tempo tutte quante. È così che molti italiani si ritrovano a chiedere prestiti per saldare altri prestiti. Detta così, una situazione davvero preoccupante e pericolosa. Ci sono però delle vie d'uscita, e una possibilità è quella di cui parliamo oggi, il consolidamento del debito, cioè tutte le piccole rate vengono unite in un unico debito, in un unico finanziamento che si può spalmare nel tempo e quindi alleggeriscono il peso della rata o delle rate mensile. E però bisogna anche tenere a conto che una risoluzione della situazione fatta in questa maniera appunto può essere a volte un'opzione finanziariamente non del tutto vantaggiosa, perché i tassi applicati a questo tipo di prestiti appunto possono essere e sono generalmente più alti. Quindi, siccome sono scelte delicate, noi oggi vogliamo spiegarvi il funzionamento di questi prestiti, di questi sistemi, dando qualche cifra e rispondendo anche alle vostre domande e alle vostre richieste di consiglio. Buongiorno e ben ritornato a Giuseppe Piano Mortari, direttore operativo di Assofin, che è l'associazione delle finanziarie, degli istituti di credito appunto, che erogano prestiti, credito al consumo e mutui immobiliari appunto. Buongiorno. Buongiorno a lei, ascoltatore. Ben ritrovato. E poi ci colleghiamo telefonicamente con Vittoria Giannuzzi dell'area comunicazione di prestiti.it, perché questo comparatore di offerte ha proprio monitorato l'andamento di questo fenomeno, scoprendo appunto dei dati interessanti. Vittoria, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, ricordo ai nostri ascoltatori le modalità con cui possono intervenire in diretta, chiamandoci all'800 24 00 24, oppure scrivendoci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete andare a curiosare anche sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Diamo un'occhiata alla borsa prima di partire. La borsa oggi è incerta perché le piazze del vecchio continente non si decidono a prendere una direzione, stanno navigando al di qua e al di là della parità, sono partite negative, poi hanno girato tutte in territorio positivo a metà mattinata. Adesso la situazione è contrastata, c'è Parigi in calo dello 0,07%, Francoforte -0,23%, Londra -0,27%, Milano invece guadagna lo 0,33%, e questo grazie a Finmeccanica, che anche oggi spicca il volo e guadagna il 6%, è arrivata a guadagnare quasi il 9% questa mattina, sempre sulla scia delle notizie che stanno movimentando il gruppo da qualche giorno, da quando si sono fatti avanti i giapponesi di Hitachi per rilevare Ansaldo Breda e Ansaldo STS. STM guadagna l'1,87%, siamo sempre nella galassia Finmeccanica. Saipem è +1,80%, Telecom è +1,43%, Lottomatica +1,40%, questi titoli con i rialzi più forti. In negativo invece abbiamo molti gruppi bancari stamattina trascinati a ribasso dalla Popolare di Milano, che perde il 5% dopo la pubblicazione dei dati. E tra l'altro il gruppo ha fatto sapere anche che, e questo è un tema del quale torneremo ad occuparci nei prossimi giorni, ha accantonato un bel po' di soldi per fronteggiare la questione del famoso e famigerato, direi, prestito convertendo. Per tutti i risparmiatori che hanno a cuore, perché hanno in portafoglio questo prodotto di investimento, chiamiamolo così, ci ritorneremo appunto sicuramente nei prossimi giorni. Tra gli altri cali, meno 2,24 Monte dei Paschi, meno 1,96 per Mediaset, meno 1,5 per il Banco Popolare e per la Popolare dell'Emilia Romagna. Anche UbiBank ha presentato i suoi conti e perde un punto. I conti presentati invece ieri sera da Unicredit premiano il titolo con un rialzo dell'1,11%. Il gruppo di Piazza Cordusi è tornato all'utile nel quarto trimestre appunto di bilancio. Volevo darvi un'altra informazione di servizio prima di andare al tema di oggi. Ah, c'è stata l'asta anche di bot a 6 mesi. Il Tesoro ha collocato 8,5 miliardi. I rendimenti sono scesi ai minimi dal settembre del 2010. Il rendimento spuntato dal Tesoro è sceso all'1,11% dall'1,20 del collocamento del 27 febbraio scorso. Lo spread sotto i 320 punti base. Di che cosa vogliamo parlare adesso? Voglio ricordarvi che il 18, il 19 e il 20 aprile sulla sede dell'Università Bocconi di Milano si svolgerà la nuova edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni. Un'iniziativa che analizza gli scenari e le prospettive dei mercati, cambiamenti in atto nel settore finanziario, con l'obiettivo di comprendere l'evoluzione normativa e operativa del mercato, le dinamiche sociali e quelle private dei cittadini. E tutti questi temi appunto saranno al centro di queste 3 giornate ricche di convegni e di confronti. Radio 24 è media partner dell'iniziativa, la seguiremo direttamente in diretta in quei giorni appunto da lì, presso la sede appunto della Bocconi. Saremo direttamente nel salone e poi vi faremo sentire anche qualche puntata qualche giorno prima, appunto per anticiparvi i contenuti più nel dettaglio di questa interessante manifestazione. Adesso andiamo al tema di oggi. Oggi parliamo ancora delle famiglie che continuano ad indebitarsi in Italia. Per la verità i dati ci dicono che sono sempre meno, perché si fa fatica ad andare in banca a chiedere un prestito e perché la banca non lo dà, ma anche perché proprio la domanda è in calo. E poi sentiremo anche per quale ragioni, ma sentiamo intanto, per chi ha molte rate da affrontare ogni mese, come potrebbe fare per alleggerire il peso di questo onere. Dover chiedere un prestito per restituire un altro prestito. Una situazione sicuramente non piacevole per una famiglia, che può essere la conseguenza di comportamenti irresponsabili e imprudenti, come l'aver ceduto troppo facilmente e per troppe volte alla tentazione di incoraggianti pagamenti rateali, ma in cui purtroppo si può anche vedere uno dei drammatici sintomi della crisi che stiamo attraversando. A trovarsi in una condizione di sostanziale insolvenza sono infatti moltissime famiglie italiane. Secondo un'analisi del portale prestiti.it, sono più di 2 milioni gli italiani che nel 2011 hanno chiesto un prestito per onorare altri debiti già sottoscritti. Una pratica che trova risposta in uno strumento ben preciso, il prestito di consolidamento debiti, che però, sempre nello scorso anno, è stato concesso a poco più di 170.000 richiedenti. La pratica del prestito di consolidamento, già molto diffusa all'estero ed ormai offerta anche da molte finanziarie e banche italiane, permette di estinguere i singoli debiti contratti nel tempo con più istituti creditizi, unificando tutte le rate in un unico rimborso mensile e allungando i tempi di restituzione, spalmando i pagamenti che possono così alleggerirsi nell'importo mensile. La richiesta media si aggira in Italia intorno ai 16.000 euro, con tempi di restituzione di 6 anni. Naturalmente, la richiesta e la scelta delle modalità di consolidamento vanno fatte con molta attenzione. Con l'allungarsi dei tempi di restituzione si può sì abbattere notevolmente la rata, ma al tempo stesso cresceranno gli interessi da pagare. 800240024 è il numero verde per le vostre domande, le vostre richieste di intervento. Ne vedo già diversi. Questo da una parte ci fa piacere, forse da una parte un po' meno, perché significa che c'è molta richiesta di informazione su questo tema, e speriamo che questo non sia un segnale di crescenti difficoltà per le famiglie, anche se purtroppo dubitiamo di questo. Allora, Vittoria Giannunzi, cominciamo con te. Qualche dato già nella nostra scheda rispetto a quello che avete rilevato dal comparatore online prestiti.it, l'abbiamo già dato. Nel 2011 oltre 2 milioni di italiani hanno provato a chiedere un prestito per pagarne altri già sottoscritti, ma non tutte le richieste sono andate a buon fine. Come mai avete deciso di monitorare il tema del consolidamento del debito e soprattutto esiste anche qualche dettaglio in più rispetto a quello che accade su Skype? Scala territoriale, ci sono delle differenze rispetto tra le famiglie del nord piuttosto che quelle del sud sulla richiesta di questo tipo di prestito? Dunque, la decisione di monitorare questo tipo di finanziamento è legata al fatto che l'11% di tutte le domande di prestito personale che sono arrivate al nostro sito riguardava appunto una richiesta di consolidamento, quindi un ammontare piuttosto elevato che ci ha spinto in qualche modo ad analizzare il fenomeno in maniera più compiuta. È alta l'età media della persona che normalmente richiede questo tipo di prestito, perché come facilmente possiamo immaginare si tratta di persone che hanno accumulato nel tempo più prestiti e quindi va a chiedere una cifra piuttosto elevata che supera appunto i 15.000 euro. Le differenze poi tra regione e regione offrono dati in più per comprendere appunto il fenomeno. L'impatto di queste richieste di consolidamento sul totale dei prestiti personali è più alto al centro e al nord Italia. Nello specifico sono il Friuli Venezia Giulia, le Marche e la Liguria, le regioni in cui i prestiti per consolidamento rappresentano la percentuale più elevata sul totale delle richieste. Chiaramente Vittoria colpisce la percentuale delle persone che sono riuscite ad ottenere il consolidamento dei propri debiti rispetto alla mole dei richiedenti. Quali sono le motivazioni per cui rispetto a 2 milioni di richieste solo 170.000 sono state soddisfatte? La banca che dice no perché non ci sono le condizioni, immagino che sia questo poi peraltro. Sì, in realtà la difficoltà ad ottenere questo tipo di prestito è legata al fatto che si tratta di un prestito sul prestito, perché in qualche modo si cerca di ottenere ulteriore liquidità a fronte già di finanziamenti in corso. Questo fa sì che la banca richieda una serie di garanzie e quindi sicuramente un passato di buon pagatore. Ora, la difficoltà a pagare tutte le rate fa presupporre che il passato di pagatore non sia proprio così luminoso. Infatti. Grazie Vittoria. Io tra un minuto devo già andare in pausa, però un commento lo concedo immediatamente a Giuseppe Piano Mortari, perché a me questo aspetto colpisce. Se una famiglia ha 3 impegni finanziari mensili da soddisfare, è segno che qualcuno in passato questi prestiti li ha fatti, quindi ha difficoltà ad onorarli, ma in ogni caso chiede un aiuto per alleggerire questo peso. Perché il nuovo soggetto che subentrerebbe consolidando questo debito dovrebbe dire di no se è comunque una situazione di intervento che andrebbe a tranquillizzare anche questa famiglia? Per prestiti già accordati, perché il quarto che sistema questa situazione deve dire di no? Ma allora diciamo che in generale non è che si dica sempre no o che si dica necessariamente no, però certamente se un soggetto, qualche anno fa la situazione era abbastanza diversa, gli operatori addirittura andavano a cercare i clienti e proponevano il consolidamento per strapparli alla concorrenza e farli i propri clienti. E oggi la situazione è un po' diversa, oggi gli operatori utilizzano criteri di erogazione più attenti e dunque selezionano maggiormente la clientela. Se un cliente si trova in difficoltà, magari perché sono intervenute, non so, la perdita del posto di lavoro piuttosto che una separazione, un divorzio, insomma eventi che possono succedere ai noi, a tutti, evidentemente la possibilità di rientrare diventa più complessa e dunque si può avere più difficoltà in generale a ottenere finanziamenti. Il profilo creditizio in sostanza cambia perché deteriora, certo. E di conseguenza si fa più difficoltà. Vabbè, ci ha dato già una prima risposta. Eccoci di nuovo in diretta a Salvadanaio. Questa mattina stiamo parlando di consolidamento del debito e avevamo deciso di farlo sia perché Il governo ha varato il disegno di legge che appunto regola per la prima volta nella storia del paese la bancarotta individuale, ma noi al momento non abbiamo ancora scelto di parlare nello specifico di questo argomento perché vorremmo avere la norma definita una volta per tutte e quindi dare indicazioni pratiche a chi ha bisogno di invocare questo strumento appunto per risolvere la sua situazione, quindi aspettiamo che il provvedimento sia definitivo. E poi anche perché appunto ci hanno colpito i dati presentati da questo comparatore online, prestiti.it, che ha scoperto, secondo chiaramente le evidenze fornite dal loro osservatorio, che sono molti gli italiani che chiedono un prestito per pagarne altri e quindi insomma questa evidenza ci ha colpito e l'abbiamo voluta commentare. Prestiti.it dice 2 milioni gli italiani che provano a chiedere un prestito per pagarne altri, poco più di 170 mila le richieste soddisfatte. È sicuramente un osservatorio parziale. Giuseppe Piano Mortari di Asso fine che invece ha il monitoraggio sicuramente completo dell'industria finanziaria, le proporzioni per voi sono un po' differenti? Ma insomma, noi non abbiamo rilevato intanto un particolare aumento delle domande di finanziamenti per consolidamento rispetto a quello che si diceva prima. Insomma, noi abbiamo numeri un po' diversi. In generale il mercato del credito alle famiglie e del credito al consumo in particolare è in un momento di affanno, però è molto giustificato dalla situazione che stanno vivendo le famiglie italiane, no? È un momento in cui molto razionalmente le famiglie stringono la cinghia, ricorrono meno al credito perché rimandano, cambiano le loro abitudini di consumo, rimandano acquisti che una volta invece effettuavano magari ricorrendo al credito. Già questa tendenza l'avevamo monitorata e commentata più volte quando abbiamo osservato come per esempio in linea con il calo del mercato dell'auto il prestito finalizzato destinato all'acquisto dell'automobile nuova chiaramente avesse subito, lo possiamo definire un tracollo, perché comunque da mesi e mesi questa voce è negativa, no? Non c'è dubbio. I bilanci, ecco. Non c'è dubbio. Quali altre voci sono in calo pesante, dottor Piano Mortari? Ma un po' tutte le forme tecniche, anche i prestiti personali che invece negli ultimi anni avevano tenuto sono in netta flessione, nel primo bimestre siamo a un meno 12% rispetto ai due mesi dell'anno precedente, ma anche i finalizzati, l'abbiamo già detto, sia quelli legati all'acquisto dell'auto che all'acquisto di altri beni, la cessione del quinto dello stipendio che è una flessione di circa il 15%, l'unico dato che invece non è negativo sono i finanziamenti legati all'utilizzo di carte opzioni o carte rateali, insomma, che è poco più dello zero, ma comunque non è. Quindi un dato sul consolidamento non è possibile averlo? Ma noi nell'ambito delle nostre voci... O di difficile monitoraggio? No, ricade all'interno dei prestiti personali, nel senso che sono forme di finanziamento non finalizzate che vengono erogate con la specifica finalità del consolidare debiti precedenti. Nel nostro monitoraggio non l'abbiamo, ma abbiamo una serie di monitoraggi che ci forniscono anche il trend del consolidamento e noi da questi dati non rileviamo un aumento particolare delle domande di consolidamento. Certo, in una fase in cui le famiglie si trovano in difficoltà è ragionevole attendersi che più di qualcuno possa chiedere di ricorrere a questa forma tecnica, cioè di tentare di sostituire magari gli N contratti in corso di finanziamento con un'unica rata mensile nei confronti di un unico intermediario finanziario. Quindi è ragionevole che in una situazione del genere ci possa essere un aumento. Come è successo a Francesco da Bari, della provincia di Bari, che ha chiesto ma si è sentito rifiutare la sua richiesta dalla banca. Francesco, buongiorno. Ci vuole raccontare il suo caso? Buongiorno e un saluto a tutti gli ospiti lì presenti. Posso raccontare? Certamente, certamente, come no? Certo, ci dica. Allora, guarda, le dico rapidamente, io fino a 2 anni fa in casa si lavorava in due e poi 2 anni fa, mia moglie ha perso il lavoro, lavorando già da 20 anni in un'azienda, quindi aveva già consolidato, purtroppo ha perso il lavoro. Io ho un conto corrente con la mia banca da tantissimi anni e le dico, non ho né un fido né tantomeno ho chiesto mai alla mia banca un aiuto di nessun genere, quindi nemmeno una passività. Però in questi anni ho avuto varie situazioni di finanziamento che ho creato tenendo conto dei due redditi aggiunti, insomma, messi insieme, quindi che comunque mi davano una proporzione tra le uscite e le entrate che era congrua in un certo senso. Anche perché altrimenti le società a cui aveva chiesto i prestiti le avrebbero detto di no se non aveva potuto soddisfare più che largamente i requisiti chiesti. Ma tra l'altro tenga conto che comunque sono stato sempre un ottimo cliente per le finanziarie perché non ho mai pagato una rata ritardo di un, cioè non ho mai ritardato il pagamento di una, è tutto con RID su conto corrente, per cui voglio dire, certo, meglio di così non si può. Il discorso è che in questo momento, avendo un solo reddito, ovviamente quella congruità non c'è più, nel senso che le mie uscite sono molto più alte delle entrate, quindi sono andato alla mia banca e ho illustrato la situazione, niente da fare. È andato solo da quella, Francesco? Perché magari... in realtà sì, perché quando ci si trova in questa situazione di difficoltà c'è anche una sorta di pudore, magari, come dire, andare a fare il giro delle banche e magari col timore di sentirsi comunque sempre chiudere la porta. Però tenga conto, io sono ancora tra quei pochi fortunati che comunque ho un contratto a tempo indeterminato e lavoro da 20 anni nella stessa azienda, e comunque non è facile, ecco, digerire una situazione di questo tipo, specialmente dalla propria banca, a cui non si è mai chiesto niente. Francesco. E infatti, allora adesso facciamo commentare il suo caso, speriamo che riesca a risolverlo, magari a trovare un interlocutore che riesca ad accontentarla. Francesco, tra l'altro, dottor Piano Mortari, adesso a parte la banca tradizionale, che è quella della quale parlava Francesco, ci sono sul mercato dei soggetti specializzati nel consolidamento, oppure lo fanno le banche tradizionali o le società specializzate nel credito al consumo? Lo fanno gli uni gli altri, peraltro il consolidamento si può fare sia senza garanzia ipotecaria sia con la garanzia ipotecaria, c'è chi, insomma, ci sono anche gli intermediari specializzati in erogazione di mutui per consolidamento. In questo caso evidentemente si deve stipulare anche un contratto con un, insomma, bisogna di fatto ipotecare l'immobile, quindi c'è la garanzia anche ipotecaria. E ci sono alcuni operatori che ne fanno il prodotto di punta, altri che invece ce l'hanno ma come prodotto marginale, quindi insomma quello che posso suggerire all'ascoltatore è appunto intanto di non fermarsi alla sua banca, che potrebbe essere poco propensa in questo momento, mentre ci possono essere operatori più propensi, naturalmente sempre valutando attentamente le condizioni che gli vengono proposte, quindi raccogliendo se possibile più preventivi, augurandomi che riesca a ottenerli più preventivi. Ci dia delle indicazioni pratiche di comportamento, quali sono soprattutto le condizioni alle quali dobbiamo guardare per capire se l'offerta che ci fanno è ragionevole, è economicamente vantaggiosa, è chiara, anche trasparente. Quali sono tra l'altro i tassi praticati su questo tipo di prestiti, dottor Piano Mortari? Allora, diciamo intanto che quando si fa una scelta di consolidamento la si fa tenendo conto di due aspetti, come sempre in operazioni di finanziamento. Uno è l'aspetto di convenienza economica, e questo è dato evidentemente dall'indicatore complessivo del costo, che è il TAEG. Quindi osservare il TAEG e naturalmente fare scegliere l'opzione che presenta un TAEG. Il tasso complessivo di tutto il finanziamento, il tasso effettivo globale comprende tutti gli elementi di costo, e quindi la scelta di convenienza va fatta sulla base di questo indicatore. Naturalmente la si fa anche tenendo conto della sostenibilità, perché nel momento in cui si sceglie di consolidare verosimilmente lo si fa proprio perché non si è in grado, o comunque si è in difficoltà nel sostenere le singole rate. Allora, cosa può succedere? Se io ho fatto, adesso estremizzo, ma se ho fatto 3 finanziamenti per comprare l'auto, il motorino e il computer tutti a tasso zero, io consolidando vado sicuramente a perdere in termini economici, perché sicuramente non troverò nessuno che mi farà un tasso zero sul consolidamento, ma riesco ad abbattere la rata e quindi a rendere sostenibile il mio debito. E quindi dal punto di vista convenienza certamente non faccio un'operazione valida, ma faccio un'operazione che mi consente la sostenibilità nel tempo della mia rata. I tassi sono quelli dei prestiti personali, in questo momento si aggirano intorno al 10-11% in termini di TAEG. No, perché c'era Luigi della provincia di Lecce che appunto voleva soffermarsi proprio sull'onere applicato a questi prestiti. Luigi, per la verità, come ha avuto modo di sentire, l'industria finanziaria ammette che sono anche più alti di quelli che indica lei. Buongiorno intanto. Buongiorno. Luigi, ci sente? Sì, eccoci. Eccolo. Allora, io... Pronto? Sì, ci siamo, Luigi. Allora, io ho vissuto l'esperienza e tuttora ancora non sono arrivato alla soluzione, nel senso che o per un prestito personale minimo da 30.000 oppure per un mutuo da 60.000. Il discorso qual è? Che il mutuo non si trova meno del 5.80%. Lo so, gli spread sono altissimi adesso, Luigi, è vero. Sì, il fisso. Sì. Mentre per quanto concerne il prestito personale, per 30.000 euro vai esattamente a pagare gli stessi interessi per un mutuo di 60.000. Allora la domanda è la seguente: se il signor Draghi, il presidente della Banca Europea, dà i soldi alle banche, perché le banche non le rimettono nel sistema? Alle banche. Se il signor Luigi ha bisogno di 60.000 euro per l'acquisto dell'immobile per uno dei figli o per una vettura, cioè un povero disgraziato fa un incidente, distrugge la macchina, deve cambiare, non vedi perché deve andare a pagare il tasso di interesse al 10% quando c'è una giustificazione valida. Il signor Draghi o chi per il signor Draghi non ha pensato per necessità primarie il tasso di interesse. La banca o la banca europea dovrebbe venire incontro a chi ha bisogno del... Allora Luigi, questa è la grande domanda che non solo lei ma anche molte imprese si sono fatte da dicembre, da quando appunto la BCE ha inondato di liquidità il sistema bancario italiano, però ponendo certe condizioni. Prima di tutto dovevano comprare titoli di Stato e quindi tranquillizzare il mercato obbligazionario, abbassare gli spread, poi dedicarsi a famiglie ed imprese. Ancora questa liquidità non si è rimessa completamente in circolo. C'è anche da dire che le banche stanno ancora, secondo i requisiti chiesti dal regolatore europeo, cercando di soddisfare le richieste appunto patrimoniali. Non li giustifico affatto, Luigi, sicuramente sono all'origine di questa crisi, le banche, lo sappiamo bene, è partita nel 2007, detto questo è un meccanismo che si rimette in moto con difficoltà, però la sua osservazione è pertinente e adesso ci faremo dare una risposta da Piano Mortari dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Allora, le osservazioni e le considerazioni poste dal nostro ascoltatore di Lecce, Luigi, ci metto insieme anche quelle di Francesco da Ascoli Piceno, che saluto. Francesco, stamattina prima della partenza della nostra trasmissione, conoscendo in anteprima appunto l'argomento che avremmo trattato, ci ha scritto una lunga mail. Francesco, buongiorno, ingegnere anzi, buongiorno. Buongiorno, no, allora, vabbè, Francesco, ci racconti un po'. Buongiorno a tutti gli ospiti. Che cosa le è successo? Ha dovuto chiedere un consolidamento e ha avuto qualche difficoltà, pur avendo una bellissima professionalità, che lavora anche nel settore, adesso non lo capisco neanche bene, sì. Però sono un ingegnere chimico, lavoro come dipendente in una multinazionale, in un'importante industria multinazionale piuttosto solida finanziariamente come lavoro. Ho un dignitoso stipendio che ho anche indicato nell'email e diciamo che per esigenze non tanto di non possibilità di pagare le rate che ho, ma quanto di consolidarle in un'unica rata e magari avere a disposizione un po' di liquidità residua, avevo chiesto in giro un po' di informazioni a diversi istituti bancari finanziari per poter accedere a un prodotto finanziario del genere, esatto, per un ammontare di circa total globalmente 15-16.000 euro, cose del genere, quindi che andavano comunque a estinguere il capitale residuo di 8-9.000 euro e il resto e darle un pochino di respiro magari per far fronte ad altre cose. Esatto, leggo ma senza anche grandi esigenze particolari, ecco. Leggo anche, Francesco, che l'azienda sua si sarebbe resa disponibile anche a fungerle da garante. Esatto, l'amministratore delegato, diciamo, spesso collaboriamo insieme anche per progetti e mi diceva che all'atto della firma del contratto, che nel caso in cui avesse avuto necessità di accedere a prodotti finanziari, l'azienda poteva fungere da garante. Il problema qual è? Il problema è quello che è per molti miei coetanei e anche non solo, è che è un contratto a tempo determinato. Esatto, che fa rizzare i capelli alla maggior parte delle persone che mi ascoltano da parte degli istituti bancari. E infatti, certo, in un contesto in cui dovremmo abituarci sempre di più a rapporti di lavoro flessibili, come li chiama il ministro, la professoressa Elsa Fornero, perché non vuole essere appunto chiamata con l'articolo al maschile, in un contesto in cui dovremmo sempre di più abituarci a rapporti di lavoro di questo tipo, chiaramente invece la banca ancora chiede un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il mio tempo a mia disposizione sta velocemente scorrendo, allora Francesco grazie mille e metto sul piatto di Giuseppe Piano Mortari il caso sia di Luigi da Lecce che del nostro brillante ingegnere appunto da Ascoli Piceno. Ma sì, io credo che il sistema bancario finanziario italiano dovrà necessariamente adeguarsi, no? Oggi tendenzialmente si concedono finanziamenti della durata del contratto, si tende a garantirsi evitando di erogare finanziamenti che durino di più della durata del contratto di lavoro di chi lo richiede. Però se diciamo, i propositi del nostro governo si realizzeranno, cioè quello di garantire con la riforma del mercato del lavoro che sì, ci siano forme flessibili, ma che questo garantisca la stabilità della situazione lavorativa, cioè uno è diciamo, più facilmente un lavoratore stabile ancorché in posti diversi, insomma ha la stabilità del lavoro ma non del posto mm-hmm. di lavoro, beh, se questo succederà, come è già realizzato in altri paesi, penso per esempio all'Inghilterra, dove le banche concedono regolarmente finanziamenti laddove percepiscono che la situazione del richiedente è tale da garantirgli una stabilità prospettica della posizione lavorativa, ancorché non del posto di lavoro. Io credo che necessariamente ci si dovrà adeguare a questa nuova realtà. Come mai, secondo lei, anche nel caso del nostro ascoltatore di Ascoli Piceno, pur con la disponibilità dell'azienda a farsi da garante nei confronti della banca, questo ragazzo non riesce ad ottenere questo consolidamento? Poi non abbiamo raccontato i dettagli, lui avevo nella nostra mail, ha un ottimo stipendio, Francesco, 14 mensilità, premio di produzione, e quindi è tutt'altro che un profilo, come dire, rischioso, almeno a giudicarlo sulla carta. Sì, no, da questo punto di vista no, però se il piano di rientro per i 15-16 mila euro durava, faccio un esempio, 8 anni, non so quanto poteva durare, il contratto di lavoro è di 3 anni, questo già mette in una condizione, nessuno vuole andare a chiedere i soldi poi al garante e dunque all'azienda o all'amministratore delegato. Il primo requisito è che diciamo, le caratteristiche del soggetto richiedente devono ragionevolmente garantire il rientro della posizione. Luigi da Lecce, la Banca Centrale Europea ha dato un sacco di soldi alle banche italiane, alle istituzioni finanziarie, perché le banche non ce le ridanno a noi? E soprattutto, vabbè, non parliamo del tasso, perché la BCE ha erogato all'1% da restituire appunto in 3 anni, peraltro, mentre quando poi si fa il prestito personale alla famiglia si richiede l'11% per consolidare. Sì, adesso io mi riferivo a importi molto più contenuti dei 30.000 di cui si parlava, comunque sì. Di fatto l'ha già data lei molto correttamente. I meccanismi di trasmissione della liquidità che arriva alla BCE sono diciamo complessi e lunghi, quindi per arrivare al fatto che ne benefici il consumatore finale ci vuole un po' di tempo. Quello a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane è comunque un abbassamento degli spread sui mutui, e dunque la tendenza è già in atto. Certamente il problema che ha subito il sistema bancario nella fase più acuta della crisi, quindi nell'autunno scorso, è stato tale da far sì che gli operatori abbiano necessariamente dovuto aumentare di molto gli spread, e adesso diciamo progressivamente, man mano che la situazione si sistemerà, si ridurranno. Certo, vi terrò sotto osservazione molto attentamente piano Mortari, e poi ci ritorneremo a parlare, soprattutto anche per parlare della condizione di quegli ascoltatori che ci scrivono e vorrebbero raccontarci che sono costretti a chiedere un prestito per pagare tasse arretrate. Siamo arrivati all'appuntamento con le pillole curate in collaborazione con IMSS, che continuiamo a trovare in conclusione di puntata, un momento dedicato a spiegare il funzionamento dell'ultima riforma delle pensioni. Questa settimana abbiamo il tema del passaggio per tutti al metodo contributivo. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con IMSS. Che cosa cambia con l'introduzione del calcolo contributivo per una persona che oggi si trova quasi alla fine della vita lavorativa? La pensione di questo lavoratore sarà composta da due quote. La prima riguarderà le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 e sarà calcolata con il vecchio metodo retributivo. La seconda quota riguarderà le anzianità contributive che il lavoratore avrà maturato dallo scorso 1 gennaio e sarà calcolata con il nuovo metodo contributivo. In definitiva, la pensione di un lavoratore che oggi è prossimo alla fine della vita lavorativa cambierà, con l'applicazione del nuovo metodo, solo per una piccola parte. L'estensione del metodo contributivo a questa categoria di lavoratori segue il cosiddetto criterio del pro rata, e cioè riguarda solo le anzianità contributive maturate da quest'anno. Dottor Piano Mortari, grazie per essere stato con noi, alla prossima, buona giornata. A presto, grazie. A tutti gli ascoltatori, andate sul nostro profilo Facebook e noi ci sentiamo domani, buona giornata a tutti.